fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è. Siamo tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con sta storia dei matrimoni, dell'adozione, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Eccoci ragazzi, in che compagnia, non voi dico, ma le puttanate che avete elencato, l'elenco sconfinato e impudico di puttanate reali e verbali che ammorbano il nostro tempo, mamma mia. Devo dirti la verità, caro Parenzo, io adoro quest'uomo, l'uomo che fra poco sentirai, è il proprietario di molti supermercati a Milano, è il signor Caprotti che una volta fece causa ai figli, poi l'ha ritirata, insomma, discute anche con i figli, perché non gliene fotte, alla fine della famiglia gliene fotte poco, guarda soprattutto ai suoi interessi, al business, eccetera, non guarda in faccia nessuno, nemmeno ai figli. Ma a proposito della Grecia, ha le idee molto molto chiare il signor Caprotti, il grande padrone di tutti quei supermercati che vedete soprattutto a nord, che si chiamano S lunga. Caprotti e la Grecia. Penso che bisogna mettersi a lavorare un po', perché in Grecia fanno una cosa molto semplice: non lavorano, vanno in pensione a 50 anni, scusi. Beh, amico mio, signor Caprotti, ha scoperto. No, però è un diretto così, beh, bisogna mettersi a lavorare un po'. Mettersi lo dicono tutti da mesi. Vabbè, cioè, ho capito, molto molto alla fine i discorsi, tutte le chiacchiere, pagine e pagine di giornali, 6, 7, 8, 10 pagine di giornali, alla fine i discorsi vanno anche ridotti alla loro essenzialità. Cioè, al nucleo, cioè, vanno anche riportati sulla terra. Ma adesso non è che è arrivato lui, Caprotti. No, ma lascia perdere Caprotti adesso. Caprotti può essere un esempio, però è uno che riduce la questione alla sua essenzialità. Andate a lavorare, andate in pensione più tardi e non rompete i coglioni. Restituite i quattrini, sì, dilazioniamo, eccetera. Però basta quattrini e restituite quelli che vi abbiamo prestato, con gentilezza prestato. Ma vuol dire che anche in Italia non è che va benissimo, non è che va benissimo. Leggo su qualche giornale nei giorni scorsi che c'è una signora, una professoressa di Palermo, una tale Claudia Sortino, detta la professoressa ballerina, la quale usava i permessi che gli concede una legge per l'assistenza dei parenti in gravi condizioni di salute, legge che si chiama legge 104, ma di cui non me ne fotte assolutamente nulla. Leggo che questa signora usava i permessi per andare a ballare il tango con il suo fidanzato argentino. Ebbene, secondo i magistrati, si tratterebbe semplicemente di un danno lieve per lo Stato e dunque non va punita, ed è stata sostanzialmente prosciolta. Cioè, tu praticamente non vai ad assistere i tuoi parenti come previsto dalla legge, ti assenti dal lavoro, vai a ballare il tango non so dove, non vieni licenziata come dovrebbe essere normale, cacciata a pedate nel sedere. No. Una piccola multina. Questa è una follia dei giudici, perché ovviamente. Non è una follia dei giudici, poi dice che non bisogna. No, questa è una follia dei giudici, non è che la legge 104 di Bertone. Ma lascia perdere, perché non voglio nemmeno sentirne parlare, no, della legge 104. Non pronunciare nemmeno questa parola. 104, ma il fatto che è una questione di civiltà, che tu lavori, hai dei parenti gravemente malati, puoi andare. E poi dicono che non bisogna controllare se i dipendenti sgarrano o no. Ma questo che c'è? Controllare tutto. Ma qui bisogna vedere se la coi magistrati, però. Sì, ma bisogna controllare comunque tutto. Oh, mi comunicano che c'è una gentile signorina che si chiama, com'è che si chiama? Paola Maugeri, un animalista, credo sia anche una conduttrice, non so, la conosco poco. Si chiama Paola Maugeri, che sostiene il fatto che non mi sopporta e chi se ne frega, me ne fotto totalmente, diciamo, di quello che dice. Si chiama Paola Maugeri, animalista convinta, vegetariana e quant'altro, la quale dice delle, a mio parere, delle corbellerie pazzesche sulla questione degli animali, dei vegetariani, eccetera eccetera. Dice anche che non mi sopporta, e io rispondo: e chi se ne frega, sti cazzi, ce ne faremo una ragione. Anzi, sono anche abbastanza onorato di questa cosa, sono onoratissimo di questa cosa, godo come un riccio, godo. Questa signorina dice, per esempio, che a me, diciamo, sconosciuta fino all'altro giorno, ne avevo sentito parlare così vagamente, lontanamente, che gli animali sono nostri fratelli animali, no, che non mangia le uova, la latte, la carne, non, le pellicce, le cose, nostri fratelli animali. Che se ne faccia carne, o che se ne faccia uova, o che se ne faccia latte, o che se ne faccia pellicce, per me è un atteggiamento totalmente sbagliato su tutta la linea. Gli animali sono nostri fratelli, non sono né sudditi, né cose, né macchine. I miei fratelli si chiamano Federico e Sofia, gli animali non sono miei fratelli. Il mio fratello si chiama Beniamino e no. Non hai un animale come fratello, fratello no. Animale. Fratello io animale. Ho fratello Beniamino, quello è fratello. Fratello che, animale. Che fratello. Hai anche conosciuto via radio, ma tuo fratello su, Beniamino. Dai, su, dai, dai, dai. Siamo qui, 800 24 00 24. Mi segnalano ancora che ci sono leghisti incazzati con la signorina Efe Ball. Molti leghisti incazzati, perché i manifesti in giro per la città di Milano riprendono, fanno vedere la signorina Efe Ball con il sole delle Alpi al posto del reggiseno, cioè copre le tette, ovviamente tette artificiose, come dire, no? Frutto di un intervento successivo a quello della nascita. D'altra parte, la signora Efe Ball è una transessuale, cioè ha il pisellino. Signora Efe Ball coperta dal sole delle Alpi. Molti si sono indignati, come se fosse la prima volta che indossa effigie leghiste la signora Efe Ball. C'è un tizio che è il collaboratore di Calderoli che dice: è un uomo. Vedere l'utilizzo del sole delle Alpi con questa frase per scopi puramente pubblicitari mi sembra davvero fuori luogo e disgustoso. Agli ometti che corrono dietro a questa persona e se ne vantano facendo le foto, sappiate che lui è un uomo, e quindi smettetela di parlare di famiglia naturale. Lezioni di sesso di Antonio Razzi, che ieri qui alla Zanzara ha dato un consiglio ai giovani, caro Parenzo, un consiglio che io dico di non seguire, con tutto il bene che voglio al senatore Razzi, dico, no, al senatore Bossi, anzi al senador. E la cosa è molto semplice, dice Razzi che è meglio farlo al naturale, cioè senza il cosiddetto cappuccio, cioè i giovani... se andate con le prostitute mettete il preservativo, altrimenti dice è meglio farlo al naturale. Beh, caro Razzi, attenzione, attenzione. Fare l'amore senza il preservativo è meglio, non c'è niente da fare. Ma più. È normale, tutto un altro gusto. Cioè, tu, ai giovani bisogna consigliare questa cosa. Ma sicuramente, se vuole veramente assaporare il gusto della, il gusto, diciamo, è come dice, il gusto dell'arrosticino, dei sagni e fagioli, devi mangiare al naturale. Perché sennò che fa la gomma? La gomma, lo so, però. Tanto vale che mi viene una ruota della macchina, cioè, la fai con la ruota di una macchina. Sì, è un po' così. Cioè, farlo senza preservativo, secondo l'autorevole opinione del senatore Razzi, significa in sostanza senza preservativo come farlo con una gomma di, con una, un, no, un pneumatico, però insomma, sì, ma non è proprio così. Adesso Anto, dai, su. Giannino sbrocca a Ballarò sulla Grecia. Concludo anche che la Romania è una destra però italiana che sta a sinistra di Tsipras, perché qualcuno che ricordi che nei 9 anni, dal 1999 al 2008, la Grecia ha raddoppiato i dipendenti pubblici, fa più 240% di spese in retribuzioni pubbliche, e che cazzo, ma la destra italiana dove è finita? E i greci diranno: siete voi che ci avete cacciato. E a quel punto le seghe sulle regole europee ce le facciamo, ma intanto il guaio è purtroppo creato. Allora, in due interventi Giannino ha pronunciato la parola cazzo e la parola ci faremo le seghe sulle regole europee. Direi straordinario. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico, il traffico. Mamma mia, no, il traffico. No. Ma sono una boiata pazzesca. Traffico no. No. Fate qualcosa, vi prego. La zanzara. Detto che il casseggio non è serietà. E Pulcinella, te lo ricordi, diceva casseggiando, casseggiando. Allora, poi uno dice che non si deve incazzare, no? Fra poco faremo intervenire gli ascoltatori su moltissimi argomenti. Leggo oggi dal Corriere della Sera l'incredibile storia di 5 borseggiatrici rom. 5 borseggiatrici rom. Ladre. 25 figli, 5 ciascuno in media. 192 denunce. Arrestate 78 volte. Quasi mai in carcere. Quasi mai. Ripeto, 25 figli, 5 ladre rom. 192 denunce. 78 volte arrestate. 78 volte arrestate. Sono state fermate l'altro giorno alla stazione di Milano mentre stavano sfilando il portafoglio a una turista asiatica. Una, tra l'altro, aveva in mano, in braccio, al collo, il figlio di 3 mesi. I reati per loro diventano subito depenalizzati. L'unica cosa che può fare il giudice è un divieto di dimora nelle città che hanno la metropolitana. Figurati cosa ci fanno questa roba qui. Lo sai cosa dicono queste qua? Viviamo in un camper, rubiamo solo agli stranieri, quando ci sono gli italiani ci fermiamo. E poi, ovviamente, sono sempre incinte, dunque non rischiano mai il carcere. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Capito? Questa è l'Italia. Che c'è? Che hai da dire, Parenzo? No, su questo? Ma intanto, primo è un problema di leggi, sicuramente. Vabbè, uno che continua a commettere reati deve finire in galera. Poi? Dopodiché, però, hanno anche un problema di ufficio stampa, queste signorine. Cioè? Questi signori rom. Perché non è che uno va lì a intervistarle e uno si aspetta almeno che no, quindi dico no, noi non ruba, no, no, invece loro ti dicono no, noi rubiamo, ma soltanto agli stranieri. Quindi sono non solo integrati. Poi perché solo agli stranieri? Perché con gli italiani rischiano qualcosa, dici? No, perché dico, magari gli stranieri sono più distratti, no? Quindi non si accorgono, non sanno, magari gli italiani sono più. E invece no, loro dicono noi rubiamo, sì, certo che rubiamo, ma agli stranieri. Quindi hanno bisogno veramente di un ufficio stampa molto importante che ricollochi un po' la loro posizione, perché effettivamente sono degli sprovveduti. Io non ho mai visto un criminale ammettere di essere un ladro. Questi veramente hanno un problema enorme, perché come si fa veramente? Ogni giornale, ogni televisione, ogni microfono che gli va sotto, questi ammettono sempre che rubano. È incredibile. Sì, ma è una cosa da incazzarsi, dai. Cioè, ma 78, da incazzarsi, però 78 volte le... arrestati. Su. Ma fai l'ufficio stampa te a questi rom, no? No, dai. Io quelli che rubano non posso fare ufficio ma stampa. Ma sì, fai lo stampa, fai ufficio stampa. Non sto mai dalla parte dei ladri, mai. Ho capito, mai. Ma sei sempre là con i mediatori culturali, con questi per qua. Cui, questi con questi qua, i mediatori. Ma con questi mediatori culturali non servono una mazza, no, amico mio. Ma mediatori culturali, perché uno ma come ruba, no? È quello che dici tu. No, ma in questo caso non è che ci vuole il mediatore culturale. Se uno ruba 50 volte e nel carcere ci va soltanto per mettere un timbre e poi esce dopo un'ora, è evidente che quello è un problema. Chi è quel matto che può difendere questi? Tu ogni tanto ci hai provato. Paolo da Cagliari, vai. No, Paolo. Io mai con quei ladri. Paolo da Cagliari, ciao. Dimmi. No, mi ricordo che negli anni 90 io ho lavorato proprio lì nel villaggio dove c'è Parenzo adesso. Vabbè, ce ne faremo una ragione, poi di che vuoi parlare? No, ma la cosa divertente è che ho lavorato per i giovani di C. Io ero un tecnico video e quindi vabbè, e allora? Lì nel villaggio dove c'era lui, vabbè, insomma, era l'opposto di quello che lui è e quindi magari poteva essere contaminato dalle vecchie. Vabbè, Paolo, non ci interessa. Fabio da Vicenza, vai. Ciao. Fabio da Venezia. Venezia, vai, dimmi. Sì, ciao Bruciani, io chiamo per il discorso di ieri sera di Parenzo. Sì, vai, dimmi, cosa? Sono in vacanza in Puglia e non voglio essere rotto le palle, ha detto lui testualmente ieri sera. Ma perché non spegni il telefono e per quella settimana lì sta zitto, non lo chiamate, intervieni solo tu che è tanto meglio? Ma questa è una tua opinione. Questa è una tua opinione. Sei in vacanza, dai. Non è una mia, è una mia opinione, ma è in vacanza in Puglia. È in vacanza, è in vacanza in Puglia, ognuno gestisce. In vacanze, come tutti quanti, che spenga il telefono. Scusa Fabio, ma posso scegliere io se chiamarlo o non chiamarlo o no? Cioè, non è che puoi decidere tu. Tu hai ragione, puoi scegliere di chiamarlo, giustamente. Però è molto più interessante sentire te che lui. Va bene, Francesco da Agrigento, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao David, ascolta. Ciao. Il discorso di Berlusconi. Sì. Allora, sono sicuro che quello che ha raccontato ieri la ragazza, che mi è sembrata molto in gamba, è vero. Quale ragazza? È vero, quale ragazza? La pornostar, quella che raccontava gli episodi di Berlusconi, quella che avevate ieri ospite. La Nappi. La Nappi, allora? La pornostar, non mi ricordo come si chiama. È vero, perché secondo me Berlusconi, con tutte le trombate che si è fatto, figurati, non poteva avere questa fantasia, ma sono strafatti suoi, stracazzi suoi. Ho capito, perché... ma mica è colpa mia se la signora Imane Fadille è stata a casa di Berlusconi, infatti, e poi ha scritto un diario successivamente allegato agli atti della magistratura. Ma siccome poi la magistratura, figurati, su queste cose, queste fughe di notizie, Francesco, squallide... ma quello possiamo discutere mille volte. Ripeto, non ho ospitato io la signora Imane Fadille, come si chiama? Iris Berardi, Imane Fadille è quella che poi si rifiutò in realtà di partecipare alle serate, almeno secondo il suo racconto. Non l'ho invitata io da Presidente del Consiglio questa gente a casa mia, capito? Cioè, l'ha invitate lui queste persone. E dunque poi se inviti certe persone, poi a un certo punto ti puoi aspettare che queste qua ti sputtanano, amico mio. Sì, vabbè, ma infatti, ma non nessun tipo di scandalo, meglio di quegli squallidi che si andavano a pranzo di nascosto, tra cui Circano e Marrazzo. Ma che c'entra Circano e Marrazzo? C'entra una mazza, dai, non c'è, due cose diverse, dai, sono due cose completamente diverse. Che sciocco. Francesco, che sciocco. Provincia di Chieti, dai. Dimmi, Francesco. Francesco, niente. Giuseppe, Teramo, dai. Sì, allora, senti, Peppino, ti volevo dire questo. È la prima volta che ho il piacere di parlare con voi. Vabbè, vai veloce, vai. Niente, io volevo dire, perché arrivano tutti questi maschiacci emigranti? E non arrivano i figli, le mogli, i nonni? Ci sono anche le donne e i bambini, mamma. Beh, la percentuale è più poca la percentuale. Vabbè, perché diciamo sono capaci di resistere di più perché dovrebbero rimanere lì per proteggere la loro terra, dovevano combattere per proteggere la loro terra. Questi sono tutti disertori. Ma in che senso disertori? Anche delle donne incinta. Arrivano donne incinta, ma quelli bambini. che hanno 20 anni sono disertori. Ma disertori di che? La sua testa che diserta la ragione, diserta. L'unica cosa che lei diserta è la ragione. No, dovrebbe stare lì a combattere per la loro patria, non che vengono qui in Italia a scappare. Ma combattere dipende da che cosa, amico mio? Cioè, vabbè, Franco da Treviso, vai. Franco, pronto? Dimmi Franco, pronto. Vai. Allora, mi riferisco alla trasmissione di ieri con quel pesce lesso di Puchini. Sì. Avete detto un cumulo di stronzate che fanno schifo. Noi diciamo sempre stronzate. Tu sei un campione del mondo. Perché ti fai pagare e ti pagano per dire delle troiate. No, ma dimmi che cosa, Frank. Innanzitutto togli l'auricolare, quello che... Togli quell'auricolare che non si sente, dimmi. Io non ho l'auricolare. Vabbè, allora... Parlavo del massaggio prostatico e di tutte le puttanate che hai detto a proposito. Fa schifo, una trasmissione così fa cagare. E allora perché l'ascolti? Perché l'ascolti? Infatti non l'ascolterò più. Bravo. E farò di tutto. Bravo. Perché tu venga licenziato. Sì, sicuramente. Guarda. Impossibile, guarda. Sì, guarda. Una testa di cazzo come te. Sì. Non dovrebbe stare. Ma lo sai quante persone ci hanno. Sai quante persone hanno. Lo sai qua. Ma stai zitto, imbecille. Sai quante persone ci hanno provate? Ci hanno provato, Franco. Non sarai certamente l'unico. Richiamatemelo questo stronzo dopo, va. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. La Zanzara. Da Salve, sono in linea con i due simpatici stronzi, lì Cruciani e quell'altro lì, come cavolo si chiama, Paranza, Parenzala. Somaro che non sei altro tu, se tu sei Somaro senza la coda. Allora ragazzi, leggo che a Roma potrebbe arrivare una cosa che si chiama zoning, cioè dire l'interdizione alla prostituzione in alcune aree della città, che non significa dare delle aree alle prostitute o comunque permettere in alcune aree di esercitare la prostituzione, né significa purtroppo la legalizzazione della prostituzione, ma sono previste semplicemente delle maxi multe, 350-450 euro, per chi viene sorpreso a contrattare prestazioni sessuali. È un nuovo regolamento di polizia urbana. È una follia, ma che vuol dire una cosa di questo? Non vuol dire nulla, a parte che probabilmente poi le prostitute si trasferirebbero in un'altra zona. Qui la soluzione drastica da adottare è solo una: legalizzazione. Legalizzazione. Tutti questi sono tutti palliativi per togliere le prostitute dalla strada, e non so nemmeno se ci si possa riuscire. L'unica roba seria da fare, è quella della legalizzazione. Inutile zoning, le multe, eccetera, eccetera. Tutta roba che non serve. E le decisioni tramite click. Ogni decisione sarà intrapresa attraverso un click. Voglio andare in Afghanistan? Click sì o no? Voglio fare questo sì o no? Parenzo, un po' di tempo che non lo diceva, però, con un click decidiamo se andare in Afghanistan. È tutto così anche a casa mia. Mia moglie, ad esempio, metteva online quando doveva andare al gabinetto. No, lei vabbè, doveva andare, mi ha lasciato, non so perché. Avevo chiuso i bagni con la chiave, tutti chiusi. Lei a un certo punto ha detto: io ho mal di stomaco, devo andare in bagno. No, deve decidere la rete. Non si può decidere pure su chi fa accesso o no, dai. E non può andare al bagno. È normale, lo fanno ovunque. Ma per me è ovunque, così. Non si può prendere la decisione, deve Grillo. Decidere la re. Non ho capito perché se n'è andata. Se ne sono andati anche i miei figli, sono solo in casa, non so perché. Ma non ho capito, Grillo, lei voleva far decidere. Lei aveva molto mal di stomaco, doveva andare di corpo. Ho chiuso il bagno con la chiave, doppia mandata. Messo online in 30 secondi, il popolo della rete ha detto che non doveva andare in bagno. Chiuso, arrivederci. La rete ha deciso. È così, si risparmia tempo, votazioni. Beh, no, in questo caso non si risparmia tempo, in realtà, se uno deve andare a giocare. La rete è più democratico di così. Mia moglie continua a dire: mal di stomaco. Ho detto: ma la rete è casaleggio. Hanno detto di no. Io ho messo i voti online, hanno votato 5.000 grillini, hanno detto che mia moglie non deve andare al bagno. Allora arrivederci, chiuso il bagno, la rete ha deciso. La Germania uscirà dall'euro, Dixit, Grillo. Basta, dimentichiamocela la Germania. Non potrà neanche andare avanti. Vedrai che sarà lei a uscire dall'euro. Sarà la Germania prima di tutti. Poi propone ancora il referendum se rimanere o no nell'euro. Noi non ci è stato chiesto di entrarci nell'euro quando ci siamo entrati, vogliamo una risposta degli italiani con un referendum se vogliono rimanere o no. Sempre il click, sempre il click. Normale. Ogni decisione sarà intrapresa attraverso un click. Voglio andare in Afghanistan? Click sì o no? Voglio fare questo sì o no? Ieri abbiamo saputo che Razzi non conosce che cos'è un dildo. Un dildo. Che vuol dire? No, il dildo, sai che cos'è un dildo? No. Un dildo, sai, non sai che cos'è. Io vengo dalla campagna. Insomma, queste cose qua. Dildo, non sai che cos'è un dildo. Che? No, ma Antonio, una bistecca? Me lo spieghi, ma con parole sue. Ma il dildo lo sa che cos'è, dai. Sai, ma queste sono parole che io non posso e non uso dire. Io sono un uomo di mondo, ma non arrivo fino a lì. Ma no, perché non hai mai usato? No, io ho sempre andato al naturale. Ci sono molti siciliani oggi incazzati per queste frasi del professor Edward Luttuak pronunciate alla Zanzara, in cui dice che sostanzialmente la Sicilia è un fardello per l'Italia. Non ha tutti i torti il professor Luttuak. C'è un sacco di gente fancazzista, un sacco di gente pagata da noi per non fare una mazza. Insomma, la Sicilia come la Grecia d'Italia, poi se la prende pure con i poveri. Non so se vi ricordate in questo intervento del mitologico professor Luttuak con i vigili urbani di Palermo, che dalla sua esperienza concreta sono praticamente invisibili, e dunque lui dice, beh, se sono invisibili, perché dice che ha attraversato la città piena di traffico eccetera e non ha visto un vigile. Questo sembra la roba di Benigni del traffico, no? Sono stato a Palermo per venire a Favignana, sono passato a Palermo, sono andato in automobile da Bagheria al centro di Palermo, sono andato dal centro di Palermo all'aeroporto, c'erano ingorghi stradali e non ho visto un solo vigile, non ho visto un vigile. I vigili saranno invisibili, i vigili di Palermo, però devono essere pagati in euro invisibili. È sicuro che la Sicilia è come la Grecia, fra l'altro è insolvente. C'è un enorme numero di dipendenti regionali che dovrebbero essere licenziati domani mattina. Allora, Paolo da Udine, vai Paolo. Sì, buonasera Cucciani, salve. Io volevo segnalarle una, probabilmente, delle tante follie che ci sono nel nostro ordinamento giudiziario. L'articolo 544 ter del codice penale oggi punisce in maniera più severa il maltrattamento su di un animale di quanto si punisca severamente la violazione delle norme antifortunistiche. Ma io non so se è vero, non mi stupisco, sarà qualche folle che ha fatto introdurre questa cosa. Per carità, il maltrattamento degli animali è da condannare. Aspetta un attimo, aspetta, fermo, pronto? Pronto. Sono Cruciani, ciao. Mi vuoi far cacciare? Mi vuoi far licenziare? Com'è la storia? Scusa. Magari. No, ma guarda, Cruciani, tu sei anche uno che fa delle... Scusami, Franco da Treviso, tu vorresti... Tu vorresti... No, non ti voglio far parlare. Tu vorresti farmi cacciare. C'è un signore che mi vuole fare cacciare? Paolo, allora, io non metto in dubbio che questo possa accadere. Ma adesso bisognerebbe andare a verificare se veramente i reati sugli animali sono più, come dire, sono... La modifica al codice penale è stata fatta dal governo Berlusconi, dalla Brambilla, era una proposta della Brambilla che ha trasformato una contravvenzione in un delitto. Per cui il maltrattamento degli animali, tu dici, è punito più che il maltrattamento sulle persone, maltrattamento, violenza sulle persone. Esatto, e c'è una sentenza della... Vabbè, allora... No, che ha condannato una persona perché deteneva un uccello in una gabbia che veniva ritenuta troppo piccola rispetto alle sue... Queste sono perversioni, dai. Sono solo perversioni. Pronto? Oh, che vuoi, Franco, ancora? No, io non voglio... No, ma che cosa vuoi da me? Io ti perseguito per tutta la sera, voglio capire che cosa vuoi da me. Spiegami. Parla, basta che non... Volevo solo dire... Sì. Anche degli interventi che sono intelligenti. Sì, ma parla bene, però parla bene. Ecco qua, così, avvicina la boccuccia, avvicina quella boccuccina che c'hai al telefono, vai. Allora, però quando fai quando crei degli spazi come quello di ieri sera con quel pesce lesso di Mughini e parlate di quelle cazzate, io avevo in... Ma tu non pulisci non puoi nemmeno pulire le scarpe a Mughini. Ma non gli puoi nemmeno pulire le scarpe. Ma non me ne frega un cazzo di pulire le scarpe. Cioè, a un altro livello rispetto a te, capito? Certamente. E mi distingo fortunato di essere ad un altro livello. Ma perché? Perché ha criticato Grillo? Quando avete fatto quell'intervento sul massaggio prostatico, su quelle puntate. Beh, allora, perché tu non hai mai fatto un massaggio prostatico? Non ho capito. No, qual è il problema? Vabbè, pazienza. Che siano argomenti da fare. Sì, io parlo anche di questi argomenti. Hai problemi? Hai problemi? Non ho sentito problemi. Io non per caso che ci sia della gente come te, sì, che fa delle trasmissioni così e venga pagata. E allora chiedi, sono pagato per parlare anche di queste cose. Purtroppo per te. Rispettoso della legalità. Che c'entra la legalità? Rispetto, che c'entra con questo la legalità? C'è una fase di rispetto cui dovresti mantenere un riguardo. Denunciami per oltraggio al pudore, vai. Finte come te non va denunciata, sempre le prese a schiaffoni. Sì, provaci. Mamma mia, guarda. Provaci. Ma potresti farlo. Provaci. Dovete carti. Ma io sono qui, via Monterosa 91, 20149 Milano. Via Monterosa. Monterosa 91, 20149 Milano. Vai, forza, provaci. Provaci. Vedrò di provarci. Provaci. Ciao, provaci. Poi, amico mio, una volta che ci provi, hai finito, lo sai, no? Denuncia, polizia, cosa, finito, chiuso. Chiuso. Perché tu sei capace solo di... No, io no, è Parenzo quello che denuncia tutti. È Parenzo quello che denuncia tutti. Il classico... No, ma non è questione di omuncolo, mica siamo all'età della pietra che uno si. Mica siamo all'età della pietra che uno si affronta con le mani. Ma io ti ho detto che. Ma sei tu che mi stai dicendo che dovrei venire lì a schiaffi? No, ma sei tu che vuoi darmi. Tu hai detto vorrei darti due schiaffi. Io ho detto che ti farei licenziare voi. Ma dove vai? Ma dove vai? È una radio come questa. È una radio come questa, sono stupito. O sei tu che paghi loro per farti tenere in trasmissione. Perché vai, anche il dubbio che c'è, vai a nanna, vai, una camomilla, ciao. Ciao, ciao, nanna, a nanna. Vaffanculo, ciao. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. La Zanzara. Sono stupito che una radio come questa paghi, o se tu che paghi loro per farti tenere in trasmissione, perché non è anche il dubbio che c'è così, Com'è che ha detto nei giorni scorsi Lapo Elkan? Ogni mattina mi alzo e immagino di non avere niente, di dover ripartire da zero. Dopo essersi svegliato con questo pensiero, cioè quello di essere povero, di non avere nulla, si è immediatamente, secondo quello che si legge dalle cronache odierne, si è immediatamente legato a inaugurare una nave. Sì, si è fatto costruire uno yacht da guerra, praticamente a sua immagine e somiglianza, sì. Cioè dire con un look mimetico, e lo ha chiamato Lap One, cioè dire Lapone. Sì, anche lì un po' gotico, diciamo. Vabbè, quello è normale, cioè se chiami. Poteva chiamarlo Fiomma. Insomma, il rampollo di casa Elkan si è regalato un giochino, un piccolo yacht. Quasi da guerra, praticamente mimetico, con una, no, con un'estetica come se fosse una. Lui ama molto questa cosa, la mette anche nelle macchine, no? Beh, è bello svegliarsi così e pensare di non avere nulla, ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Io voglio richiamare tra poco, adesso tra qualche minuto, stiamo ricercando i numeri perché sono cambiati. Vi sembrerà strano, ma è tornato tra noi il senatore Mimmo Scilipoti. No. Mimmo Scilipoti. Perché insieme ad Antonio Razzi, ospite ieri alla Zanzara, oggi si è scoperto, ma la proposta di legge è vecchia, che ha firmato una cosa pazzesca, ha firmato un disegno di legge per multare chi fuma in macchina. Cioè chi fuma in macchina, beh, siete tanti, lo so che ci state ascoltando dentro i camion, dentro le macchine, state ascoltando la Zanzara, eccetera eccetera, chi è in macchina dovrebbe essere multato fino a 600 euro. Giusto. Cesare da Palermo, vai. Luciani, tu critichi Scilipoti per la prima minchiata che non dice. Comunque, beh, amico mio, per me è una minchiata. Cioè, la multa per chi fuma in macchina è una puttanata inaudita, secondo me. Inaudita. Ma ognuno può fare quello che vuole in macchina, ragazzi. Sai cos'è? Riallacciandomi al motivo per cui ho chiamato. Qual io sono da Palermo. Lutpak ha ragione da vendere. Palermo è diventata una città invivibile con questo traffico. La già scarsa disciplina dei guidatori palermitani. Vabbè, questo sembra Johnny Stecchino, però, Ma guarda, oggi veramente. Il problema è il traffico. Dai. Il problema oggi è il traffico. Sì, però Cesare dice un'altra cosa, al di là della questione dei vigili urbani di Palermo, dice che la Sicilia è la Grecia d'Italia, Lutwak, che è praticamente fallita, che bisogna licenziare un sacco di gente, ed ha ragione perfettamente. Io da palermitano. C'è un sacco di gente che vive da parassita in Sicilia, dai, su, allora, come nel resto d'Italia, peraltro. No, però qua la situazione è diversa. Il termometro io ce l'ho perché faccio il farmacista. Ascoltami, il ticket non lo paga nessuno. Come cazzo è possibile? 1.200.000 abitanti sono, cioè, tutti, sono tutti, tutti esenti, o diciamo, hanno tutti invalidità civile. Amico mio, è l'Italia, è l'Italia, è l'Italia, no, di merda. qua sono tutti disoccupati e poi hanno il secondo lavoro, chi ti ripara. Bravo. Ma siamo in mezzo senza fare. Ma certo, Cesare, siamo in presenza di una di un altro paese, cioè è un'altra cosa. No, però scusami, c'è molto di più. Cioè questa telefonata mi fa, manda il sangue al cervello, perché siccome noi siamo i primi con il ditino alzato, oh, la Grecia deve pagare. Vero, deve pagare perché hanno fatto dei casini allucinanti. Ma noi a chi possiamo insegnare? Noi possiamo alzare il ditino che abbiamo un'evasione fiscale mostruosa. Certo. Noi abbiamo le pezze al culo come ce l'hanno i greci, da noi si va in ma quanto ci abbiamo messo a fare una riforma delle pensioni? No, ma sono d'accordo con te. Allora nessuno alzi il ditino. No, io lo posso alzare perché non. No, no. Ma tu non è tu. Io lo posso alzare. Nessun italiano. Certamente i siciliani non possono rompere le balle sulla Grecia, appunto. Ragazzi. Cioè, dai, su. È una regione che vive di parassitismo, come altre regioni. Però è una regione che vive di parassitismo. Una buona metà dei dipendenti pubblici regionali siciliani va cacciata domani mattina. Andrebbe cacciata, solo che non si può lasciare poi sull'astrico la gente. Dunque, la colpa è di tutti quei politici che negli anni se ne sono sbattuti e hanno assunto un sacco di gente. Cesare, che dicevi? Lavoratori socialmente utili assunti. Vabbè, non parliamo, a centinaia di migliaia, non parliamo soltanto per garantire il posto in poltrona. Una vergogna, veramente una vergogna. L'immondizia, la città invasa di immondizia, un cassonetto sì, un cassonetto no, potete trovare anche l'Eternit, ragazzi, non sto scherzando. Io mi sono vergognato l'altra volta. Dunque ha ragione Lutovac, secondo te? Assolutamente. Vabbè. Credimi, io amo la mia terra, amo la mia città, però perché devo negarlo? È la verità. Vabbè, Sauro, provincia di Lucca, vai, Sauro. Ciao, Crucios. Ciao, Sauro, dimmi. Io voglio parlare di cose serie. Queste minchiate di leggi contro le prostitute, contro chi va a Mignotte, funzioneranno in pochi paesi. Se vieni a Prato, dalle mie parti, hanno legalizzato andare a Mignotte, perché le cinesi hanno aperto centri massaggi dove chiunque va dentro, si fa la sua scopata, si fa la sega, viene fatto il massaggio, se in un luogo pulito si fa la doccia e ti fanno anche la fattura. Beh, pulito addirittura, la fattura non credo proprio. La fattura. Pulito e ti fanno la ricevuta fiscale, fidati, ci sono andato io. Cioè tu sei andato a Mignotte in un centro cinese di massaggi cinesi? In un centro di massaggi, loro ti fanno il massaggio, poi ti dicono se vuoi con l'aggiuntiva di qualcosa di più, ti fanno una sega, un pompino oppure ci puoi andare a letto. Sì, d'accordo, Saulo. E tranquillamente ti fanno la ricevuta fiscale. Perché non possiamo legalizzare allora le mignotte in Italia? Tanto lo fanno già le ma io ho i massaggi cinesi che si trasformano. Ma quanto vale in questi posti, scusa? Io ci vado una volta ogni tanto, così, una goliardata anche tra amici, però. Io una volta ci sono andato, devo confessare, Parenzo, questa cosa, sai, che questa trasmissione. Ma che è una cosa non sporca che non hai fatto? Beh, sempre ne faccio quotidianamente di cose non sporche. Una volta sono andato insieme ad una mia amica molto bella, peraltro. Lei che mi ha portato, ma lo dico così. Ma no, ma sono andato in un centro massaggi cinese qui a Milano. Ma con l'amichetta? No, con una mia amica, un'amichetta. E quella guardava mentre la cinese massaggiava. Ma siete una banda di spaccatori. Aspetta, se voi aspettate un attimo, sono ancora le 19:42, aspettiamo le 20:15, almeno le 20:20, e poi racconterò qual è stata l'esperienza in questo centro massaggio. Scusami un attimo, secondo te, ad esempio, no? Per chi è interessato, restate. No, ma voglio dire, racconterò nel dettaglio. Metti i palli dei Bomba 6, no? Sì. Metti i palli dei Bomba 6. Ma chi è Bomba 6? È l'ex Confindustria, no? Ma non lo so, non lo conosco più. Mettiti nei panni di un dirigente della Confindustria. Non era in Parlamento, signor Bomba 6. Sì, era in Parlamento. Ma dico allora? Bomba 6 per dire, un dirigente attuale della Confindustria. Si mette in macchina, accende la radio in estate, 19:42. E senti il racconto di Cruciani che con l'amichetta va a farsi no, fare un aspetta, il racconto non è mio, il racconto non è mio e sarà un racconto delle 20:15, un racconto dettagliato di un'esperienza pazzesca in un centro massaggio. Ma l'amichetta che faceva l'amichetta? L'amichetta, appunto racconterò dopo, scusa, ma non è l'amichetta, è una l'amichetta è una definizione, un modo di parlare da anni 70. Sì, l'amichetta, c'hai l'amichetta, l'amichetta era l'amante, quando uno diceva che c'hai l'amichetta. L'amichetta, ma che è? Ma che terminologia usi? Vente da bacchettone, come si deve chiamare? La tromba amica è anche brutta come definizione. È un'amica con cui sono andato in un centro massaggio cinese a Milano, dove evidentemente non facevano solo massaggi, ma ha ragione Sauro dalla provincia ma poi di Lucca. È stato l'happy end o no? Altro che Pied, altro cala, che cala. Altro, no, che cala, cala, cala, cala. No, ma che cala dell'utri, no, amico mio, t'abbraccio fortissimo. Comunque sei uno sporcaccione immorale, no, per... Allora Sauro ha perfettamente ragione, ci ha chiamato la provincia di Lucca per raccontarci una cosa molto semplice, che in realtà la legalizzazione esiste ormai nei fatti, cioè i centri massaggi sì. cinesi anche qui a Milano c'è una lunga tradizione, se ne è parlato un sacco di volte, hanno fatto gli scherzi eccetera. I centri massaggi cinesi ormai sono dei centri veri e propri, in alcuni casi di prostituzione legalizzata. Ecco, sulla pulizia non metterei la mano sul fuoco su tutti, caro Sauro, caro Sauro. No, può capitare che qualcuno non sia pulito, non ne metto in dubbio, però se tu trovi un locale pulito dove ci sono delle ragazze che comunque sia, sì, le paghi, fanno quello che devono fare, tutto a caso sono solo straniere, le nostre ragazze italiane che fanno il lavoro più vecchio del mondo avranno anche loro il diritto di non inventarsi un centro massaggi, ma di farlo a casa sua. Ma no, ma si può anche inventare un centro massaggi come scusa, tranquillamente, poi dentro può succedere di tutto. Ma Sauro, tu sei un frequentatore assiduo, dunque, mi sembra di capire, no? Non sono frequentatore assiduo, però le capisco. Cioè, le capisco, tanto è l'ipocrisia. Il 50% degli italiani va a Mignotte, o ci è andato per una volta, a Farenzo farebbe piacere, ci c'è andati, te la pagherei io. Mi farebbe bene così. Parenzo, perché non ti fai pagare una seduta da Sauro, da signor Sauro? Posso, è una delle poche cose sulle quali posso, diciamo, giurare. Che non andrai perché... mai, che non andrai mai. No, non è mai, questo non si può dire, non lo so. Appunto. Ma che fino ad oggi, alla veneranda età di 39 anni, 40 anni saranno il 14 febbraio. Non hai grazie, provato una volta una prostituta. Non regali, ma bonifici sul conto, grazie. Del 14 febbraio. Sì. Fino ad oggi non sono mai andato con una prostituta. Questo te lo posso dire. Veramente una cosa incredibile questa. Dopodiché, perché mi fa schifo l'idea di pagare una per farmi fare. Vabbè, ma anche solo per esperienza, anche grazie solo per capire. Io ho sempre avuto a disposizione sì, sì. Quello che desideravo. Cioè, hai avuto a disposizione quello che desideravo, ma come parli? Come parli, Silvano da Bergamo? Abbiamo capito. Vabbè. Abbiamo capito. No, volevo aggiungere, ma faccio dopo. No, aggiungi. No, dopo Silvano Bergamo. Racconto delle cinesi, non ti preoccupare. Silvano da Bergamo. Vai. Sapete perché Farenzo non è mai andato a prostitute? Perché è già lui una prostituta. Eccolo qua, vai Silvano. Allora comunque niente, non avevano già tolto il vino, però a riguardo le zingare che rubano sulle metropolitane e fanno tanti figli, sì, fanno anche tanti esatto. figli, esatto, hanno 25 figli, no? 25 figli e 5. Allora, prima cosa comincerei a sterilizzare le zingare, sì, le donne rom. Comincerei a tagliargli pure le mani, sterilizzare e tagliare le mani. Dopo piano piano via anche la testa. Vabbè, Silvano, però abbi pazienza, adesso torniamo alla non lo so, cioè noi stiamo permettendo a tutti di fare tutto. Allora, qua non noi stiamo permettendo. Noi stiamo permettendo, attento a cosa stiamo facendo. No, noi però Silvano, scusami. In una delle più importanti stiamo permettendo a tutti di fare tutto. Ecco, e noi stiamo infatti permettendo. No, però andiamo per ordine. Silvano da Bergamo chiama, dopo aver sentito il racconto delle rom più volte incinta, 78 volte arrestate, che rubano solo gli stranieri perché evidentemente no, si fa fatica a rubare l'italiano, comunque si rischia di più a rubare gli italiani, a meno dicono loro, in realtà secondo me rubano anche gli italiani, pizzicate ancora mentre mettono le mani nel portafoglio di un signore australiano eccetera eccetera, le quali però la fanno sempre franca perché il codice penale alla fine paradossalmente è dalla loro parte. Silvano da Bergamo esordisce con la telefonata dicendo che lui sterilizzerebbe queste signore. Lasciamo perdere dopo. Scusa Silvano, ma un paese che sterilizza le persone, sterilizza uno che ruba, che paese è? Allora questo qui dell'Australia, quando ritorno in Australia, dirà: cazzo, ma l'Italia che paese è? La stessa cosa, no? Dice: però l'Italia vede, che paese è? Vede, che permettono a tutti di delinquere, di fare quello che vogliono. Scusi, quanti anni ha lei? Io ho 59 anni. Bene, è nato quando esattamente? Scusi, per capire una cosa. Quando è nato lei esattamente il? Vabbè, adesso non andare a cercare. Va bene, comunque... allora, la domanda molto semplice che io mi faccio è: ma 59 anni fa il suo caro babbo e la sua cara mamma non potevano andare al cinema? Sì, coglionazzo dei miei stivali. Oh. Se i suoi genitori fossero andati al cinema, ci avrebbero risparmiato un imbecille come cosa, lei. La stessa capito? Cosa vale anche per te. No, no, non vabbè, questo può essere soggettivo. Vabbè, d'accordo? Ragazzi, mi avete rotto le scatole. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Io ci proverei, ragazzi, a chiamare Mimmo, Mimmo Scilipoti, che, ripeto, è arrivato a proporre insieme a Razzi, ad altri 16-17 senatori, tutti della destra, chissà perché, cioè tutti di Forza Italia o giù di lì, una roba incredibile, cioè multare chi fuma in macchina, cazzo. Cioè chi fuma, adesso non ci si può nemmeno fumare in macchina. Ma vi rendete conto o no? I pericoli esistono ovunque, anche se uno prende una bottiglietta d'acqua in macchina e si distrae, è la stessa cosa. Eliminiamo gli oggetti dentro le macchine, che facciamo? Guidiamo con la camicia di forza. Guidiamo con le mani attaccate così, con la camicia di forza, in cui uno non si può distrarre. Vediamo la musica in macchina, cioè, vediamo la zanzara, chiudiamo le radio, perché la radio può essere fonte di distrazione, tu ti metti a ridere, magari ti giri, ti volti, no? Oppure dici vaffanculo per quello che ha detto Cruciani, vaffanculo per quello che ha detto Parenzo sei uno strozzo, ti incazzi, la zanzara fa incazzare, dunque può fare distrarre, vietiamo anche quella. Io voglio chiedere questa cosa a Scilipoti, chiamatemelo, dai. Pronto? Mimmo? Sì? Sono Cruciani, quanto tempo, come stai? Bene, tu come stai? Non c'è male. Che è successo? Vuoi proporre di non fumare più in macchina? Dovrebbe essere anche una soluzione nell'interesse di qualcuno che guida, fuma, e per distrazione dovrebbe creare qualche problema, sia lui che anche gli altri. Ma su questo ha ragione Scilipoti. Come ha ragione Scilipoti? Guarda, ti stupirò, perché io non ragiono per schemi, purtroppo, e tu sai gli scontri che io ho avuto con questo medico, politico, simpatico, trasformista, tu sai che battaglie, ma questa volta ha ragione Scili? No. Sì, quando sei in macchina, lo dice uno che ha preso la patente pochi mesi fa, sei in macchina, è una responsabilità delle persone che porti, su te stesso, ma chi se ne frega di te stesso, ma soprattutto degli altri. Se sei lì con la sigaretta in bocca, mezza accesa, e guidi con una mano, sei un pericolo per gli altri. Quindi è giusto che ti tolgano la patente. Mimmo, che dici tu? Ma io condivido quello che dice Parenzo, dico che è una riflessione importante ed è anche una riflessione ovvia. Ovvia. Che si dovrebbero fare, certo. Questa cosa di poter vietare il fumo. No, ma tolta la patente, non secondo me. Ma tu, anche se uno butta la cicca fuori, tu dici potrebbe inquinare, anche per quello? Tu pensi che sia normale, è un segno di civiltà buttare no, la quello cicca no, strada. Quello no. Allora, scusa, mi fai delle domande che... No, ma multare chi... Cioè, scusa, immaginiamo questa situazione, Mimmo. Uno che butta una cicca dalla macchina, cioè con tutte le conseguenze ne può venire... Va a finire, per esempio, ora, in questo periodo siamo in estate, va a finire in un terreno incolto dove ci sono... Dico tante. Vabbè, d'accordo. Paie potrebbero prendere fuoco con delle conseguenze drammatiche sia per la natura, vabbè, che anche per. Ma questo in generale buttare. Allora, ma che c'entra la macchina? Uno se butta una. Ma tu mi hai fatto una domanda, cioè dire. Cioè, tu veramente immagini che uno sta dentro la macchina, si fuma la sigaretta, lo ferma un vigile urbano, lei sta fumando dentro la macchina, 650 euro, 150 euro. Ma se tu fumi dentro un locale pubblico. Ma mica è mica la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, anzi è meno, cioè è a rischio chi fuma in macchina, cioè dire, non solo è a rischio lui, ma è a rischio. Vabbè, Mimmo, ma lasciateci fumare in pace dentro la macchina, almeno ma dentro la macchina. No, puoi fumare, scusami. E che glielo dice? Fuma, ti assumi la responsabilità di quello che fai se ci dovesse essere una legge. Se il fumo si può e si deve evitare, anzi, multare, togliere la patente a chi fuma in macchina, te lo dico io. Tu toglieresti la patente a chi fuma in macchina, io Mimmo? Io fumo, peraltro. Mimmo. In questo momento dico non lo so se effettivamente togliere la patente, sicuramente una multa salata andrebbe fatta. Una multa salata, dai, su. Molto salata. Ti posso chiedere una cosa? Con il sale che viene dalle saline siciliane. Ti sei risposato alla fine? Ti voglio bene, Parenzo, un abbraccione di fuoco. No, la prossima volta. Ciao. Perché ti sei risposato, no? Non ho capito perché gli hai chiesto Parenzo alla fine, poi ci ha buttato giù il telefono come al solito, è diventato veramente un villano questo Scilipoti, Beh, non è mai stato. Butta giù il telefono, non è mai parla. Stato Re Carlo, diciamo. Ma vorrei farvi ascoltare le parole di Scilipoti quando battagliava, ormai è diventato una sorta di. Non reagisce più, non si incazza, vabbè. Ma non ho capito perché gli hai chiesto se si è risposato? Si è risposato? Ma, diciamo, non è che sono interessato alla sua vita privata, però mi risulta che appunto se sia. abbia avuto anche lui una travagliata. Vabbè, storia. Si è risposato, questo sai. No, no, volevo appunto avere conferma se. Hai avuto questa indiscrezione, questa notizia. Scilipoti si è risposato. Questo leaks, ho avuto questo leaks, sì, sì, me l'ha Patrizio, dato... provincia di Terni, dai. Assange. Patrizio, vai, dimmi. Oh, Patrizio. Patrizio. Niente, non si sente, vai. Giuseppe Matera. Buonasera amici miei. Dimmi, dimmi caro, dimmi. Senti, chiamo in merito alla questione della Grecia. Io sono stato in vacanza per 4 volte in Grecia e oltre al fantastico mare, alla buona cucina, vabbè, alla Metaxa porto il ricordo che i greci sono una massa dei vagabondi. Cioè? Senza girarci intorno, dicono a Roma voglia di lavorare, saltami addosso. I greci voglia di lavorare, ne hanno ben poca. Oltre a te adoro anch'io il signore che ha parlato prima dell'S lunga, perché è inutile dare sempre colpe agli altri, allo spread, dare colpa ai tassi di inflazione, alla Merkel. Cioè tu dici non c'hanno voglia di lavorare, questa in sostanza andando proprio che... al sodo. Al sodo, è chiaro che noi italiani, come diceva il buon Parenzo, non è che possiamo dare l'esempio che siamo ai primi posti, però vi posso assicurare che la loro voglia di lavorare è pari all'amore che io ho verso l'Inter, quindi giusto per fare un paragone. Cioè, essendo tu juventino. Esattamente. Cioè, quindi, hai un amore sotto zero, dunque voglia di lavorare dei greci sotto zero. Quindi prima di dare colpe altrui, questo vale per la Grecia, così come vale anche per ognuno di noi, che sono un ultraliberista la Giannino, è inutile sempre prendersi con gli altri, ogni tanto un esame di coscienza verso noi stessi non farebbe male. Fermi se tutti, fermi, ho capito, fermi. Parenzio, Parenzio, la Paranza è, non Parenzio, la Paranza. La Zanzara. Ormai è tutto degradato ormai. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Intanto Parenzo, è arrivata la notizia che Berlusconi è stato condannato qualche istante fa, è stato condannato per i voti comprati, chiamiamola così, il processo sulla De Gregorio, se non sbaglio, compravendita dei senatori, è stato giudicato colpevole in primo grado. Quella in cui indirettamente c'entra anche l'amico, forse testé intervistato. Chi? Ah, no, Scili, non credo. Non è in quella? No, non è in quella assolutamente. È stato condannato a 3 anni e a 5 anni, se non sbaglio, di interdizione dei pubblici uffici. Bisogna aggiungere che tutto questo cadrà molto probabilmente, anzi al 90%, qualcuno dice addirittura al 100%, in prescrizione. Berlusconi di nuovo condannato, però andrà in prescrizione. Patrizio, provincia di Terni, vai. Sarà contento Prodi adesso. Bah, Patrizio, provincia di Terni. Beh, sì, Prodi. Ciao Cruciani, dimmi, buonasera. Dimmi. Senti, no, io ti volevo dire semplicemente una cosa, che in onore a quella baggianata che ha firmato l'onorevole Scilipoti. Sì, Razzi riguarda... anche Razzi, Scilipoti, altri 15-16 persone. Bella. Io stavo in casa e stavo ascoltando te alla radio, sono sceso di sotto nel garage, mi sono messo in macchina, la mia macchina interamente pagata. Cioè perché... sei uscito anche dal garage? Sì. Sì, sono proprio davanti casa, diciamo, nella strada che porta a casa mia. E mi sono acceso non una sigaretta, ma una bella canna. Oh, qui siamo al top. Allora, tu sei dentro la macchina e ti stai facendo una canna, in sostanza. Sì, la mia macchina, perché io, secondo me, dentro la mia macchina posso fare che cazzo mi pare, no? Ma non assolutamente, Patrizio. Allora, in onore a Scilipoti, visto che lui ha detto che... O l'amico tuo, quello che sta giù in vacanza. Ah, anzi, ieri avevi detto che ci davi l'indirizzo di dove stai in vacanza, ma io sto indirizzo ancora. Ah, Parenzo, sì, è vero, devo dare l'indirizzo di Parenzo. Non avevo dubbi che Parenzo non avrebbe dato ragione a Scilipoti. Parenzo che non ha dato ragione a Scilipoti. No, scusami, forse hai sentito male. Parenzo è per punire i clienti delle prostitute. Sì, punire. Siccome, no, purtroppo, siccome lo punire chi fuma al cervello. Ma perché? Gli arriva tranquillamente, ha voglia ossigeno che gli arriva. No, non gli arriva, no, per cui non credi che io ho detto che questa volta, siccome non ho i paraocchi su questa cosa specifica, ha ragione Scilipoti, perché se parlando, tu fumi una sigaretta in macchina, sono fatti tuoi, scusami. Ma sono apparentemente fatti tuoi, tu puoi fare quello che ti pare, e ti parla uno che in genere fuma ma non in macchina. Però se tu vuoi fumare con i tuoi figli, puoi fare quello che vuoi, ti ho detto, non è quello il problema. Il problema è se sali in macchina, inizi a guidare con la sigaretta accesa, e poi per colpa della tua sigaretta fai pure un incidente. Ma è una cazzata, come... è una cazzata. Ma guarda, Parenzo, ascoltami. È una stupidaggine, è una stupidaggine. Io faccio l'autotrasportatore, Parenzo. Ma tu puoi autotrasportare quello che vuoi. No, aspetta un attimo, io fumo 40 sigarette al giorno e sono 25 anni che faccio l'autotrasportatore. Basta che non lo fai mentre guidi. Neanche un incidente, neanche uno, neanche mezzo. Basta che tu non lo faccia mentre guidi. Ma no, che ma vuol io dire? Se lo faccio vorrei prendere altrimenti sotto te, ti ritiriamo la patente. Te lo ritiriamo. Ma scusa, tu fai l'autotrasportatore e te fai le canne, no? Giusto per capire. Quando sto a casa. Ah, non. Ho capito. Vabbè, però. Ma quello può fare quello che gli pare. No, ma perché ti dà un'informazione? Quando sono in relax, sì. No, ma questo probabilmente è l'aspetto migliore della sua vita, ma non è neanche questo. Questo no, questo è uno degli aspetti migliori della mia vita. Ma va benissimo. Ma io guarda, favore, figurati. Io rispetto tutto e tutti, per carità. Ma tanto questa roba qui non passerà mai, ragazzi. Io la penso anche così, dai, Parenzo. Ma te non vai a prostitute, non fumi, non bevi. Certo che fumo. Ma tu fammi capire una cosa. Ma quando sarai vecchio, Parenzo, ma che cazzo racconterai? No, scusami, stai prendendo un granchio, perché come al solito l'ossigeno in questi secondi non ti è arrivato al cervello. Io non hai capito. Fumo le sigarette, fumo ogni tanto i sigari. Qualche volta, una volta al mese mi faccio una canna. Tutte le sere bevo almeno due bicchieri di vino. Ogni tanto bevo anche il whisky. Faccio una normale, modesta attività e anche soddisfacente attività sessuale. Dopodiché, se tu mi dici sei andato a prostitute, ti dico no, perché non ho mai avuto né interesse né bisogno. Non fumo le sigarette mentre vado in macchina, non mi rompere le balle. No, vabbè, nessuno ti vuole rompere le balle. Che c'è? No, perché se ti vuole rompere le balle, perché io dentro la macchina mia faccio che cazzo mi pare. Sì, basta che stai fermo. Ma non è vero, basta che sei fermo. Ma di che parli, ragazzi? Ma allora uno si può far distruggere, ripeto, distrarre da qualsiasi cosa: la musica, la zanzara, le radio, una bottiglia d'acqua. No, non è diverso per niente. Le distrazioni possono arrivare in mille cose. Anzi, paradossalmente, la sigaretta è quella che distrae di meno. Qual è il punto? Scusa, Cruciani, posso dire un'altra cosa? Per il lavoro che faccio spesso mi capita di stare in colonna, no? sì. Mi passano sotto in questo periodo specialmente delle donne bellissime con delle gambe aperte, no? vedo tu, cioè quella è una distrazione, esatto, che proibiamo qualcosa che vogliamo proibire le donne in minigonna in macchina. Allora adesso dobbiamo fare far firmare una legge che praticamente lato passeggero nelle macchine le donne devono portare i pantaloni. Sì, dai, ma è una follia, dai. Vabbè, Patrizio, continua a fumarti la canna in macchina. Ha ragione, io, Patrizio, sì. Dai. Ciao, Giacomo da Prato, dai, Giacomo Prato. Pronto? Dimmi. Sì, vabbè. Che gran piacere, complimenti. Vai, allora, dimmi. Io volevo fare un'altra proposta da affiancare. Da grosso guidatore, il pericolo stradale, secondo me, andrebbe limitato il passaggio di figa. Specialmente in questo periodo è il pericolo, guarda, da guidatore incallito. Cioè tu dici guidi sempre... tanto, in realtà il pericolo è la figa. Sì, esattamente. Tamponamenti a rischio continuo. Vedi Parenzo, che facciamo? Proibiamo la figa? Quindi io proporrei... Il contatore può star tranquillo perché tanto non gliela mollano, quindi stia pure sereno. No, è quello che ne sai, ma è proprio maggior ragione, a maggior ragione. Vai lì, tieni le tue mani sul volante, torna a casetta tua. Io proporrei multa per le ragazzine, signore, MILF, granny, quello che è, che non usano un determinato abbigliamento in strada. Io affiancherei questa proposta qua. Mi sembra interessante, cioè invece di fare solamente la proibizione del fumo, facciamo la proibizione per tante cose in macchina, non si può mettere la musica. Una cosa seria, però. Dai, credetemi, il pericolo più grosso per un guidatore in questo periodo qua è il passaggio della figa, ve lo assicuro. Ma i cartelloni pubblicitari, per esempio, pubblicitari, è la stessa cosa, le distrazioni possono la e questione so che te, Giuseppe, su questo mi puoi capire benissimo. No, ma io so in realtà te... i cartelloni pubblicitari me ne fotto. No, i cartelloni, ma il passaggio no, la figa in macchina, in realtà è molto seria e anche intelligente. Ma che seria, dai, no, su, non no, è seria. No, uno in macchina non è in alcuni paesi lo fanno e chi se ne frega, cioè chi poi, se ne frega. Se posso chiudere seriamente, in Inghilterra è punito. E allora che vuol dire? Posso chiudere seriamente. Il fumatore, basta che sia una persona educata, io da fumatore in macchina non getto nessuna sigaretta, come quando sono a piedi, stessa cosa, sì, sì. Non getto mai nessuna sigaretta. Vabbè, ma quello, per terra, quello, ma, quello non, ma quello che c'entra la macchina, quello ecco, in teoria infatti, può essere punito anche se tu la butti così, cioè se tu butti una sigaretta per strada. È una questione della macchina, in teoria. È una questione di educazione. Tu puoi bruciare un campo anche se butti una cicca così, a prescindere dal fatto che la butti dalla macchina. Dai, comunque quel reato già esiste, la punizione per quel reato lì. Comunque multa alla figa, Giuseppe, perché si deve vestire in un certo modo, perché crea incidenti. Ciao. Pronto? De Gregorio? Sì? Sono Cruciani, ciao La Zanzara, come stai? Non c'è male, dimmi caro. Voglio sapere dopo questa sentenza se sei contento, se provi... Ah, sì. Che cosa provi dopo questa sentenza di condanna del Berlusconi? Mica si può essere soddisfatti delle sentenze, sono dolori per chi le commina e per chi le riceve. Io sono soddisfatto per me stesso per aver detto la verità e perché sia stata certificata la verità delle cose che però ho detto. Sei soddisfatto allora di questa sentenza? Sei felice? Sono soddisfatto per me, non sono io, non esprimo felicità rispetto al dolore degli altri. Non ho capito, scusa, aspetta che è andata via la linea. Cioè tu stai dicendo io sono soddisfatto per me ma non sono felice per la condanna di Berlusconi? No, non sono felice per le condanne, sono cristiano, non mi metto a gioire per il dolore degli altri. Sono felice che sia stato accettato che ho detto la verità. Cioè che hai preso i soldi da Berlusconi, come tu hai confessato, per cambiare casacca, diciamo, no? Esattamente. Ma scusi, il governo Prodi cadde per quello alla fine? Beh sì, e credo di sì, certo. Cioè, cadde perché si adottò una strategia di guerriglia urbana che mise alle strette il governo. E tu hai contribuito a... E io ho contribuito in maniera determinante mettendo la mia intelligenza a disposizione di Berlusconi e sbagliando. Ah, hai chiesto scusa a Prodi? Ho chiesto scusa a Prodi con una lettera, sì. Mi ha risposto, mi ha voluto perdonare e si è augurato che la verità venisse a galla e oggi la verità è... Cioè, primo grado sempre, siamo sempre al primo grado. Tu... Sì, siamo in primo grado, però non puoi dire che di fronte ad un procedimento in cui è... sancita la violazione del tempio della politica, del Parlamento, tutto possa andare in gloria con la prescrizione. O Berlusconi rinuncia alla prescrizione, come è giusto che faccia un leader di partito, e fa un passo indietro da ogni carica politica, oppure il governo Renzi si pone il problema, come credo debba porsi, di emanare una norma interruttiva della prescrizione per il reato di corruzione di cui si è parlato da tempo, che consenta a questo processo di andare fino in fondo. Mi pare di capire che ti dispiace moltissimo di questa storia della prescrizione, perché questo processo finirà in prescrizione, dunque questa condanna ma non esisterà. Ma questo processo non può finire in prescrizione. Le norme di legge quello prevedono, sicuramente. No, perché si aprirà un dibattito, mi auguro, nel paese, e si discuterà sull'ipotesi di erogare una norma interruttiva della prescrizione che peraltro... Ma tu vuoi proprio Berlusconi in galera? No, non voglio Berlusconi in galera. Guarda che la conseguenza che quella può essere. Fino in fondo la verità. E vabbè, d'accordo, però la conseguenza può essere Berlusconi in galera. Ma quello appartiene alla... quello appartiene al destino di ciascuno, alle scelte di ciascuno e a... Di la verità, per questa roba qui Berlusconi merita la galera. Non dico questo. Berlusconi si è reso responsabile di un sacco di porcate, io l'ho seguito nelle sue porcate e sono responsabile quanto lui. E hai chiesto scusa davanti a Dio anche? Hai chiesto scusa a Dio, al Signore? Assolutamente sì. Per quello che hai fatto? Assolutamente sì. Vabbè, quello almeno non va in prescrizione. Quello non va in prescrizione. Non può andare. Pure la Vito è stato condannato, sbaglio? Sì. Ma io voglio capire una cosa. Non ti sei pentito di tutto questo ambaradam che è successo? Che cosa avrei dovuto fare di più che andare dai magistrati e raccontare tutta la mia verità? Quant'è che hai preso alla fine da Berlusconi? 3 milioni? Se non mi ricordo male. Io ho preso 3 milioni per... Di cui uno certificato e due... certificato e due in nero. E due in nero per passare con Prodi alla fine. Assolutamente. Vabbè, per fare la guerra a Prodi. De Gregorio, ti saluto, grazie. Ciao, a presto, ciao. Reazione a caldo qui alla Zanzara. Ragazzi, siamo tornati ai vecchi tempi, l'emozione, la notizia, i protagonisti. Ma vaffanculo, ma che cazzo ci frega di De Gregorio, dai. Ma come? Ma che ci frega di De Gregorio, dai. Ma poverino, perché? Sì, no, per carità. No, però a caldo, ogni tanto bisogna anche tornare alle origini, vivere queste emozioni. Però con calma, con serenità. con tranquillità dopo 20 anni. Tutto è che nessuno si ricorda che ho governato, non te la sentite. Sì, cosa pure per scrittivo, con calma. Sì, effettivamente in Italia ci sono tempi con calma, è successo di tutto. Ma lei sarebbe ancora, lei sarebbe ancora premier? Io sono qui con calma, però. Lei sarebbe ancora premier? 15 anni, la gente neanche si ricorda più di Romano, però. Romano sì, Prodi. Nomi che appartengono al giurassico. Ma con calma, i magistrati, con calma. Hanno fatto una sentenzina di primo grado. Ne mancano altri due, passeranno altri 20 anni. Calma, tranquillità, serenità. La Zanzara. Allora andiamo a Campobasso da Antonio, vai. Finalmente, buonasera. Dimmi Antonio. Andiamo un po', nel resto d'Europa e nei paesi dell'est in macchina non puoi fare il cazzo che ti pare, capisci, ignorante. Fumare in macchina è sì. Vietato, è, arrivato, è vietatissimo. È arrivato ormato, a parte che te non è vero. Lo dico io perché ho girato l'Europa, in alcuni, ignorante, perché se ti scappa la sigaretta in macchina accesa, sì. Tu provochi incidenti per te e per gli altri, hai capito, ignorante? Lorenzo, ti segnalo che sei d'accordo con... Hai capito, ignorantone? Sei d'accordo con... Ignorantone, tu alla guida devi essere perfetto, non ti devi distrarre. Senti, alla ma guida. Ah, hai bevuto stasera? No, non ho bevuto, sei tu che sei ignorante come una... Allora, amico mio, innanzitutto ti segnalo che solo alcuni paesi hanno quello che dici tu. Io solo alcuni ho paesi. Girato l'Europa e in macchina non si può fumare. Ma in chi te l'ha detto? Ma non è vero. Io ho girato l'Europa. Stai calmo, altrimenti ti prende un coccolone. Stai calmo. Ti prende un coccolone. Te lo sto dicendo. Ti prende un coccolone. Stai tranquillo. In Europa non vuoi fumare. Stai tranquillo che il cuore. La polizia che fumi in macchina. Il cuore. Una bella multa. Il cuore è un problema. La terza volta ti ritira la patente e ti manda a fare in culo, cammina a piedi, capito? Scemo. E il cuore è un problema poi se ti agiti, capito? Hai capito? È un, è un problema se ti agiti. Non puoi fare il cazzo che ti pare come dici tu. Io ti ripeto, il problema, il cuore crea dei problemi ogni tanto. Tu sei ignorante. Hai avuto la fortuna di fare 2 ore di trasmissione, prendi una barca di soldi e lo fai. Antonio, ma devi stare tranquillo, però devi la tua vita, devi stare tranquillo, calmo, perché altrimenti il cuore, quando parlo io devi tacere. Com'è che dice quando parlo io devi tacere. Com'è che dice la Santa Croce di Varezza? Ricordo, piccolo idiota, davanti a me in ginocchio, capito? Adesso lo cambio, lo trasformo per te, piccolo idiota. Piccolo idiota, piccolo idiota, in ginocchio davanti a me, in ginocchio, Antonio, in ginocchio, in ginocchio, eccolo lì, eccolo che si scalda, eccolo che si, in ginocchio davanti a me, idiota, in ginocchio davanti a me, in ginocchio, in ginocchio. Ecco, ha cambiato argomento. Ecco, non ho capito. Io per questo ho telefonato. Dimmi un po' che è successo alla ragazzina di 15-16 anni. Vediamo la puttana. La ragazzina ancora non maggiorente. Sì, non maggiorente, sì, non maggiorente, sì. Non maggiorente, sì, non maggiorente. La responsabilità è dei genitori. Sì, se uno le stupra, di chi è la responsabilità, genio? Qual è la genialata che stai dicendo? Di chi è la responsabilità? Genio, allora, di chi è la responsabilità? Le ragazzine che non hanno superato l'età, sì, di maggiore età, sì, devono andare vestite un po' degnosamente. Vabbè, anche sì. Le donne di maggiore età, anche le madonne di maggiore età, ma come cazzo parli? Tira più un pelo di figa, sì, e non un carro di buoi. Senti genio. Allora non ho capito, dunque se qualcuno le stupra la colpa è anche un po' loro, giusto? No, se qualcuno le stupra la colpa è anche un po' loro. Bravo, sì, certo. Idiota, in ginocchio davanti a me, idiota, in ginocchio, in ginocchio, inginocchiati davanti a me, idiota, in ginocchio per la cazzata che hai detto, mettiti subito in ginocchio per la cazzata che hai detto, Antonio, in ginocchio, In ginocchio davanti a me per le cazzate che stai dicendo. Inginocchiati subito, inginocchiati e chiedi perdono. Perdono, chiedi perdono davanti a me subito. Chiedi perdono. Chiedi perdono. Zitto, che non si possono dire queste cose. Zitto, zitto, zitto. Inginocchiati davanti a me per le cazzate che stai dicendo. Inginocchiati subito, pubblicità. Pubblicità, inginocchiati. Togliete la parola a questo stronzo. Piccolo idiota, davanti a me in ginocchio. La zanzara. Hai capito? Tu in macchina non puoi fare il cazzo che ti pare come dici tu. E poi tu sei ignorante. Allora ragazzi, è arrivato il momento del racconto, eh? Il momento del racconto. Fra poco avremo anche un collegamento con un personaggio che da un po' di tempo non viene alla zanzara. Adesso stiamo cercando di perfezionare la cosa. Il racconto è questo, molto semplice, Parenzo. Molto molto semplice. Allora, circa due anni fa, sono andato, una sera mi chiama una gentile signorina, una mia amica, mi dice usciamo insieme, ti porto... Intanto chiariamo cos'è una tua amica. Una mia amica. È diciamo un'amica d'amore. Un'amica, è un'amica di letto, è un'amichetta. No, un'amica. Ma che ci fai con quest'amica? Ma non ti preoccupare, due anni fa non mi interessa. Comunque. Perché tu non hai amiche con cui non hai. Un'amica diciamo che avrò visto tre volte in tutto nella mia vita. Comunque, esco. Quindi hai consumato con questa. Ma non avevo. No, giusto per capire. Guarda, francamente, lo sai che non me lo ricordo? Non me lo ricordo. Sono andato con lei. Lei mi viene a prendere in macchina, mi porta in un centro massaggio cinese sul Naviglio a Milano. E anche dice, questo è strano, no? È abbastanza strano, però non pensavo. E alla fine che cosa è successo? Cominciano due lettini uno accanto all'altro, no? Sì. Molto stretti, nudi, però. Sia tu che l'amichetta. Nudi, no, nudi, mutande, diciamo. Va bene, mutande, sia tu che l'amichetta. È finita, beh, ve lo devo raccontare dopo, però. Dopo. Ma c'è stato, perché abbiamo un collegamento? No? Sì, però ve lo finisco di raccontarlo dopo. Cioè, vi dico subito: lettini accanto, uno accanto all'altro, due massaggiatrici cinesi, donne, femmine. Questa è la scena, un bugigattolo piccolo, due lettini uno accanto all'altro, due massaggiatrici cinesi, io e questa ragazza bellissima, bellissima, giovane, bellissima, stupenda, meravigliosa, uno, io accanto a lei. Ma abbiamo con noi... Ma no, ancora non c'è la linea. Abbiamo con noi il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera a voi. Come andiamo? L'abbiamo un po' trascurata, diciamo la verità. Padania, sindaco, buona Padania. Spiritoso. Allora, io sono sempre stato un italiota, diciamo, per così almeno si diceva in Lega, in tempi diversi da quelli attuali. Senti Flavio, io voglio capire una cosa, ma tu hai intenzione di rientrare nella Lega o mai più? No, io non ho intenzione di rientrare nella Lega. Anche perché c'è una incompatibilità di fondo rispetto a quello che sono, diciamo, il modo di fare di Matteo Salvini. Mentre c'era Bossi e anche con Maroni, in Lega ci si stava e ci stava pure bene. Con Salvini l'aria è diventata irrespirabile. Beh, è diventata irrespirabile, è un demagogo, un populista. E la Lega non è più quella di una volta. Prima non faceva più concretezza, cioè Bossi era veramente una Lega di lotta e di governo, e quindi portava avanti anche delle posizioni. Cioè qui solo posizioni demagogiche, solo cose irrealizzabili, solo... Ma parli della flat tax al 15% che non sta né in cielo né in terra, l'uscita dall'euro che apparimenti non sta né in cielo né in terra. Cavalchi l'onda, quello che fa comodo, certo. Che sia diciamo ascoltato dai cittadini, che però prende voti . Vabbè, ma dipende come uno ragiona. Se uno ragiona nel senso di faccio qualsiasi cosa pur di prendere voti, quello può essere una scelta, non è la mia scelta. Senti una cosa, ma Salvini premier è un'ipotesi irrealizzabile secondo te? Come, che ne so, come prevedere lo scudetto al Verona? Beh, è diventato premier pure Tsipras, dopo la Grecia l'ha pagata a carissimo prezzo. Cioè se Salvini fosse premier l'Italia sarebbe al disastro? Ma se Salvini diventasse premier fa il contrario di quello che dice, oppure non combinerebbe nulla come ha fatto Tsipras in Grecia, che ha portato la Grecia al fallimento. E dunque Salvini premier, Italia al fallimento? Salvini premier sarebbe un paradosso perché si spera sempre che un paese importante come l'Italia sia governato da chi ha dimostrato di avere capacità di governo. Mm. Senti una cosa, ma però è un'ipotesi impossibile, tu dici, oppure potrebbe anche... Auguro a Salvini, adesso l'anno prossimo ci sono le comunali di Milano. Lui ha sempre detto che ha ormai lo esclude. No, lo esclude. Ha cambiato idea anche lì. Cioè tu gli auguri di diventare sindaco di Milano, quella è la sua dimensione, dici? No, è che bisognerebbe essere costanti e coerenti. Prima vai nei centri sociali a Leoncavallo da giovane, poi vai ai comunisti padani, poi vai con Casa Pound. Poi dici: il mio grande sogno, la prima cosa per me è fare il sindaco di Milano, adesso non le ho più. Però lui dice a Leoncavallo, per esempio, che, no, che c'è stato una volta a vedere un concerto, eccetera. Ma io rispetto a quei mondi, quegli ambienti lì, non ci ho mai messo piede una volta neanche per sentire un concerto, ma non esiste al mondo. Senti una cosa, mi risulta, Parenzo, che Tosi abbia un'idea sulla questione degli immigrati. Qual è l'idea, Tosi? Ah, l'idea è, allora, prendendo atto che il 90% di chi arriva non vuole stare in Italia, allora, siccome è praticamente possibile dare a tutti il permesso di soggiorno provvisorio per fini umanitari, sì, dai a tutti indistintamente il permesso di soggiorno provvisorio per fini umanitari. Ho capito, quelli capaci che restano in Italia. E con questo vanno fuori confine e vanno in giro per loro. Scusami, questo a parte che qualcuno l'ha proposto all'inizio, ma al di là di questo, tu dici: diamo il permesso di soggiorno umanitario temporaneo a questi qua, così la maggior parte di questi piglia e se ne vanno dall'Italia. Così diventa un problema europeo. Quello è l'unico modo perché diventi un problema europeo. Però io voglio chiedere una cosa, ma va bene tutto, uno va via della Lega, la demagogia, Salvini che ha detto l'altro giorno da noi che l'Italia stava meglio quando c'era la lira, ha detto che eravamo la quinta potenza mondiale, Tosi, Beh, allora, se andiamo indietro nei decenni, questo è anche vero, andando indietro nei decenni. Sì, ma con la lira noi saremmo al disastro, rispondi a Salvini su questo se vuoi, cioè, con la lira saremmo al disastro o no? In questo momento un paese sgangherato nei conti pubblici come l'Italia, se prova a uscire dall'euro, fa la fine della Grecia. Come si fa ad essere alleati col signor Alfano? Io questo non riesco a capacitarmi. Cioè, tu che sei una persona poi sì, moderata, però poi anche col diversa da Alfano, come si fa ad essere alleati con Alfano? Ma l'hai chiesto a Salvini questo? Si è alleato con il partito di Alfano, sì, in Liguria. In Umbria, gli ha pure sostenuto un candidato suo, perché il candidato dell'Umbria sicuramente non è di Forza Italia né della Lega. Beh, no. Cosa vieni a parlarne a me? Il partito di Alfano è determinante. Vabbè, tu però per tenere in piedi Maroni in Lombardia, che lo sta tenendo su, se non Alfano. Ma non mi dirai che Alfano è un buon ministro degli interni? Che voto dai ad Alfano come ministro degli interni? Ma dipende su quale tematica. Sulla gestione dei flussi migratori gli si può dare un 6 politico. Un 6 politico? Ma dai, 6 sulla gestione dei flussi migratori. Ti sposi alla fine o no? Appena possibile, come ho detto. Va bene, ciao, presto, ciao. A voi, ciao sindaco, ciao. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacra. La Zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro. Continuano le telefonate ad Emilio Fede, telefonate di gente che gli vuole male, telefonate a ogni ora del giorno e della notte. Perché ce le mandate? Basta, non ce le mandate più. Mancava il coglione, avanti. Oh, direttore, mi fa piacere sentirla. Ma com'è sta storia, direttore? Vorrei ringraziare, insomma, che è una pompinara veramente eccezionale. Mamma mia, i figli di puttana si riconoscono da lontano e tu sei un figlio di puttana, che meraviglia. Ma posso chiederle una cosa? ma posso dirle una cosa? Che questo domani anche lei sarà nell'elenco di associazione a delinquere finalizzata alle minacce gravi, minacce di morte e anche istigazione al terrorismo islamico. Complimenti, complimenti, faccio tanti complimenti, capito? Voglione. Senta direttore. Non ho capito, Parenzo, se ci sono degli islamici che lo minacciano, questo non ho capito bene. No, ma perché la cosa pazzesca è che all'inizio ha fatto il verso a questa, questa persona. Sì, che no, fino alla fine ha fatto il verso, era Fede con quella voce là, all'inizio non sì, si... lo so. È una cosa incredibile. No, gli ha fatto l'imitazione. Senti, la io dico una cosa, questi signori del sindacato COISP della polizia, credo, hanno annunciato una manifestazione il 20 luglio, vogliono andare a rimuovere la targa in onore di Carlo Giuliani. Beh, vabbè. A Piazza Limonda. Beh, amici del COISP, amici, amici del COISP, siamo con voi, sono con voi, amici poliziotti del COISP, sono con voi, sono con voi. Ma ti rendi conto quali battaglie abbracci ormai? Ma battaglie, dai, su, quali battaglie, dai. Vai, vai lì anche tu, fatti la gita, la gitarella lì. No, però devo dire la verità, bisogna vedere a Piazza Limonda che cosa c'è scritto, adesso questa era una battuta. Questa manifestazione, dicono gli amici del COISP, non vuole essere etichettata come una butade o peggio ancora una provocazione. Bello, eh? Ma vuole essere un momento costruttivo dal quale però far emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà, evitando che diventi per l'ennesima volta solamente un pretesto per attaccare nuovamente l'operato delle forze dell'ordine. Cioè, non ho capito cosa vogliono fare, vogliono rimuovere la targa? No, probabilmente, guarda, alla fine non rimuoveranno proprio nulla, fanno questa provocazione, andranno lì, diranno due... chiedono una raccolta, con una raccolta di firme, di rimuovere il monumento che ricorda il giovane Giuliani. Il giovane Giuliani è morto, quindi sì, sarebbe, come dire, anche di rispetto da parte della polizia, anzi, pardon, da parte di un sindacato della polizia, perché la polizia mica è tutta così, anzi, ma da parte di un piccolo sindacato di polizia, di portare rispetto almeno per un morto e per quello che è avvenuto alla DIAS. Ecco, questo sarebbe doveroso. Vabbè, ma lasciamo perdere questo. Questi qua no, cosa no, va? Ma bene, sì, va bene. Non ti fa comodo, però un argomento dice, però lasciamo perdere. Ma questo. No, ma questi sono due, amico mio. No, ma questi qua vogliono due. Andare a Piazza Limonda il 20 luglio a rimuovere la targa di Carlo però Giuliani. Però i fatti su cui si vabbè, può, ma poi no, ci sono due fatti che sono incontrovertibili, che non è Parenzo che li dice, i comunisti, quello che. Ma questo che c'entra adesso? Loro si riferiscono semplicemente alla questione di Carlo Giuliani, non ad altro. Alla questione di Carlo Giuliani. Il G8 di Genova verrà ricordato per la morte di Carlo Mamma Giuliani. Mamma mia, come sei noiosissimo. Allora, e per la mattanza della Diaz. Un classico ormai degli scontri televisivi. Questa volta in campo il leghista Fedriga, credo sempre nella trasmissione dell'ottimo del Debbio, contro un islamico, il signor Abu Abed. Dove l'hanno pizzicato? Il signor Abu Abed. L'argomento in discussione è l'Islam. Ripeto, basta mettere un leghista e un islamico accanto, estratti quasi a sorte, direi, e via le danze. Se l'Islam nega che il fondamentalismo, il terrorismo sia una parte di quella religione, mente e vuol dire che il non vuole risolvere il problema. Il terrorismo fa parte della criminalità, della delinquenza. E dunque fa parte della delinquenza. Uccidono i noi stiamo parlando di una religione da 1.700.000.000 di persone. Saif, faccia finire anche lei, dai. Ma non mi faccia una cortesia, sì. Uccidono in nome di Allah. Guardi, io capisco che la verità ti fa male, i leghisti comprano le lauree in Albania o comprano i diamanti in Tanzania, per chi li comprano? A nome della Lega Nord? Quando sai rispondere? Per chi li comprano? A nome della Lega Nord? Per chi li comprano? A nome della Lega Nord? Per chi li comprano? Li comprano perché sono dei ladri, uguali, terroristi sono dei criminali. Allora tu sei un terrorista, finiscila di dire stupidaggini, finiscila, stiamo facendo un discorso serio. Quando dice questa quanto è la legge di Allah, con l'Islam? Non c'entra nulla con l'Islam. Ma cosa vuol dire? Bernardo Provenzano, nel momento in cui è stato arrestato, aveva la Bibbia in mano e il rosario al collo. Ma lui non diceva quello. Che ammazzava in nome di Dio. Questo invece pizzini, dice che uccide in nome di Allah. E questa è la grande differenza. Se non lo capisci, è drammatico. C'era il nome di Dio ricordato. Che cosa dobbiamo pensare? Che il cristianesimo è la mafia? La questione di Allah e di Totò Riina o Provenzano che uccide con la Bibbia e col rosario al collo è una puttanata, lo possiamo dire, cioè nessuno. No, però mi sembra questo amico Abed, tuo fratello Abed. Fratello no, ma insomma questo cugino Ahmed mi sembra anche ben informato rispetto ai diamanti, rispetto alle lauree comprate. È questo che ha mandato ai matti il signor Fedriga, mi pare. Perché. Attenzione, fermi tutti, grande ritorno alla Zanzara. Rocco, come stai? Quanto tempo, cazzo? Quanto tempo? Ah, bene, bene, voi come state? Tu dove sei? Ungheria, Budapest. Ma... pronto quasi per una produzione, iniziamo domani. Ah, ma non è in Grecia, mi hanno detto, da qualche parte, no? No, no. Vabbè, sono stato a fare il weekend per il compleanno di mia moglie, poi... In Grecia? Ah, sei stato proprio là con... Mykonos. Ma c'era pure cosa a Mykonos. Ah, senti, scusami, adesso che Varoufakis sta tanto tempo libero, perché non lo metti nel tuo cast? Ecco, interessante, hai visto la fotografia di Varoufakis, che è molto amato dalle donne, pare, è perfetto per un film, o no? Ma perché no? Sì, c'ha l'allure del tipo, insomma, che non ti dice le donne, assolutamente no. Ce l'ha un la po' la compagnia femminile, sì, esatto. Sì, un po' da macho però, un pelino da macho. No, ma però rispetto anche al physique du role degli attori, no? Tu che conosci, insomma, sì. Tantissimi anni, sì. non mi pare un personaggio da trascurare. Non credo che vorrà intraprendere questa carriera, credo che vorrà fare il conferenziere, farsi pagare così, però potrebbe avere il physique du role. Se fosse libero e disponibile lo pigliereste. Sì, sì, sì, ma bel ragazzo, si vede, insomma. Si vede che ci tiene ad essere e si vede che ha tanta autostima, un bel fisico, fa attenzione come si veste, il look molto giovanile, assolutamente, insomma, sì, con la maglietta. Non sembra un politico, quello sicuramente non c'ha neanche la faccia da politico, più da stavo dicendo una stronzata. No, dilla, c'ha più la faccia da paracudo, però. Sì, è vero. Ma senti, ma come hai trovato nel weekend la Grecia? Sei capitato là giusto in un momento così? So che te ne sei fottuto, amico, non so se c'era anche la signora Ruby Rubacuori. No, io ho chiesto spesso come va al ristorante, adesso è tutto, insomma, lì a Mykonos sembra un'altra storia. Beh, tutti, certo, non c'è pieno di turismo, gente sorridente, non si notava molto la situazione. No, no, vabbè, figura. No, hai incontrato per caso la signora Ruby Rubacuori? No. No, è stata intravista a Mykonos ballante a Mykonos. Wow, vabbè, c'è un sacco... E pare anche con... Ma io non sono andato a ballare, quindi per questo non l'ho incontrata. Sì, probabilmente non l'ha incontrata per questo. Senti, ma come va la guarigione dall'ossessione? Procede bene oppure ci sono state le ricadute? Allora, è bella questa domanda, perché diciamo che i primi due mesi, quindi sono uscito a fine marzo, quindi aprile e maggio, ero praticamente sotto come se fossi stato vattato, sempre uguale, tutto bene. Ho ricominciato a girare, ho ricominciato a vivere, un po' come se questo vattas fosse andata via. Sì. Piano piano ho cominciato a risentire gli odori, le sensazioni, tutto quello che è. E dunque è più difficile. Devo dire che ho tirato fuori due situazioni e che evidentemente l'isola mi ha fatto riflettere tanto. Poi in realtà ti posso dire che la vita è molto bella, quindi con questo tu capisci che è molto bella. Hai ripreso a scopangino? Non ho ripreso, ma sono molto molto molto molto tentato, molte scosse che mi provocano un bel po' di... E tua moglie? Però no, vabbè, ma mia moglie lo sa, però lei mi dice vivi come devi vivere, non ti frenare, se hai voglia di tornare a fare film. Io ho detto no, anche perché lì sull'isola ho avuto comunque una visione. Cioè, per adesso i film no, che... importante è che non guarda, vai su... Ho notato una storia, per dimmi. Adesso quando ho voglia di trasgredire, che per me la trasgressione è dedicarmi alle donne, basta, sì, certo. Altro. E che fai? E quando ho voglia di divertirmi così mi vado, prendo la bicicletta, vado a correre, quando cerco per adesso di fare questo. Di scacciare la voglia, sì, di figa, diciamolo in maniera alla Rocco, diciamo. Prendi la bicicletta e vai a correre. Beh, guarda che dura. Vado a fare attività fisica, però devo dire che insomma. Senti Rocco, ti chiedono. Ma chiedati questo, scusami Rocco. No, però fammi chiedere una cosa personale. Cioè, è più facile che i greci riescano a pagare il debito con l'Europa o che tu, diciamo così, mantenga fede al tuo giuramento? Al tuo giuramento di dedicare? Ma tra tutte e due mi sa che siamo nella merda. Stai per crollare, la sensazione è che stai per crollare, però mi raccomando. No, tra tutte e due siamo nella merda, però c'è una storia che è cambiata molto, molto profondamente, che se io deciderò di ritornare, se deciderò sarò molto molto più consapevole, non potrò più attaccarmi alle stronzate, quindi credo di non tornare. E comunque basta incontri. Mi sento consapevole di avere una gran voglia, mi sento consapevole di aver forse preso una decisione molto, molto difficile, perché poi in effetti il mio corpo mi porta a voler. Cioè, c'è poco da fare, io sono un animale dentro molto più. Voi scopate continuo. Voglio diciamo. Voi scopate continuo, non ce la fai più. Ma è un problema, purtroppo è un problema. Ti chiederò un consiglio personale prima o poi. Ma io non è che sono a questo livello perché non ho le tue possibilità, però ti chiederò un consiglio personale in un'altra puntata della Zanzara. Senti, volevo capire se tu credi che il presidente Berlusconi, come racconta la signora Iris Berardi, abbia preso un dildo nel sedere, lo racconta in una diario la signora Iris Berardi. Preso un dildo nel sedere, sì. Ma se Berlusconi ha fatto questo vuol dire che è il numero uno vero, perché ti spiego perché. Dimmi. Perché nella vecchia generazione l'immagine del macho, una cosa del genere, non l'avrebbe né mai fatto né mai accettato. Ha fatto questo vuol dire che ha preso quattro generazioni, perché oggi più o meno è un qualcosa che credo che facciano tanti, sì. E quindi vuol dire che lui è sempre una persona che si adegua ai tempi. Io devo dire che personalmente non ho mai preso un dildo nel sedere, no. Però il dito sì. Il dito l'ho preso nel sedere anche dall'urologo quando mi deve fare l'esame dello sperma e riesce a farmi venire all'istante, perché un bravo urologo lo sa fare. Se una donna ti sa toccare, tu hai dei problemi nell'eiaculazione durante un bel pompino, diciamo la verità, non riesce a venire. Sì. Se riesce a toccarti lì, ti fa venire il doppio. Quindi non è che uno perché prende il dito nel sedere si deve... Cioè tu dici se Berlusconi veramente... No, quello no. Se Berlusconi veramente ha fatto una cosa del genere, come racconta la signora Iris Berardi nel suo diario, diciamo... È il vero numero. È la mia teoria, infatti senza nemmeno sentirti prima, è la mia teoria. Ragazzi, ma perché dicono non me l'aspettavo da Berlusconi questa cosa? Ma perché la gente è bigotta e non ha capito nulla. Berlusconi è una persona... che il sesso lo vive, l'ha vissuto, lo vivrà a 360 senza nessun tipo di ipocrisia. Questa è la sessualità vera di una persona libera. Senti, dammi un nome. Dammi un nome internazionale di un tuo erede. Chi vedi in giro alla tua altezza, diciamo, lascia perdere gli italiani che tanto non... alla tua altezza James chi Dean, c'è? James Dean. Ma come James Dean? Che vuol dire? James Dean. James, con due E, lui allungato a E. È un ragazzo americano che è venuto anche a Venezia, ha presentato un film normale. Questo può essere veramente un tuo erede. Guarda, io sto andando negli Stati Uniti esattamente il 20 a Los Angeles per finire il mio documentario che uscirà l'anno prossimo, e nel documentario parlerò proprio di questo, e ho detto nel documentario questo ragazzo di 26 anni è l'unico che mi ricorda me stesso nella mia carriera per come fa stesso, perché è una persona che oltretutto non è neanche prestante fisica, una bestia di 2 metri, quello che sia, ma è uno che guarda le donne negli occhi e le scopa prima ancora di tirar fuori il cervello. Se l'uomo riesce a fare questo con qualsiasi donna, riesce a trovare quel punto lì, vuol dire che ha capito come si fa. E la gente purtroppo pensa che il pornostar sia solo una macchina. Eccetera. No, Rocco, ti saluto, un abbraccio, ciao, a presto, abbraccio, man, sempre man, grandissimo. Ragazzi, ci sentiamo domani 18:30, Parenzo, vai, l'indirizzo di Parenzo domani. Allora, no, io volevo fare un'altra proposta da affiancare. Da grosso guidatore, credetemi, il pericolo più grosso per un guidatore in questo periodo qua è il passaggio della figa. Comunque multa la figa, Giuseppe, perché si deve vestire in un certo modo, perché crea incidenti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato ormai.